Buonasera, buona domenica e ben ritrovati su Let's Talk More Rock. Una brevissima introduzione perché ce n'è tanto da poter parlare, dato che qui con me ho due ospiti. E come chi sta seguendo già un po' la diretta e sa già di cosa si tratta, sono qui in intervista. E, come dicevo, un attimo anche ai ragazzi che ho qua, anzi ragazze, ragazza e ragazzo, per essere più preciso. Il discorso di chiamare un festival, quindi questo è uno spoiler incredibile, ma comunque in settimana è stato detto chi avrei avuto qui in intervista con me. Avere un festival in intervista è molto più semplice, perché mi vado a togliere praticamente quasi tutto, non dico tutto il lavoro, però una buona 50% nell'andare a scegliere la scaletta è fatto, perché ovviamente andremo ad ascoltarci i brani di questo festival che andremo appunto a parlarne. In questa occasione, in questa domenica 7 luglio, ho qui con me il fondatore, se non sbaglio, di Pancadeca e una sua adepta, per modo di dire. Adesso passatemi il termine. Ciao ragazzi, come va? Ciao, tutto bene? Tutto a posto, grazie. Se l'introduzione faceva schifo, dimmelo subito, perché la rifaccio nel caso, Non so se la vale, c'è un titolo più bello. No, adepta che rompe le scatole anche, tra l'altro, parecchio. No, vabbè, dai, va bene. E sono qui con me, ragazzi, di Pancadeca, perché faranno il primo di settembre al Circolo Magnolia di Milano per i 25 anni, per festeggiare questa data, il festival, appunto, Pancadeca Festival. Quindi andremo a parlarne per tutta la puntata e, come dicevo nella breve introduzione che ho fatto qualche minuto fa, ci andremo a ascoltare un brano per ogni band di quello che è effettivamente il festival. Quindi ce ne andremo un po' ad ascoltare piano piano. Brevemente, per chi ha seguito già qualche diretta, ho una domanda introduttiva che non c'entra in questo momento in nessun modo con il festival. È una domanda che ci tengo a fare io per avere qualche informazione diversa da chi ho in intervista. È una domanda molto semplice, quindi vi chiedo semplicemente di stringere il più possibile, perché così dopo andremo a parlare effettivamente di quello che è e sarà il Pancadeca Festival. Che cosa sono per voi un FX? Vale, comincia tu. Non ho capito, scusami. Cosa sono per voi i NoFX? Per me è una delle band che mi ha cresciuto sicuramente. Il mio primo concerto punk sono stati NoFX nel 2007. Ok. Quindi il debutto nel punk a livello di concerti sono stati NoFX. Ok, quindi sicuramente anche tu sei molto, molto affezionata, e dispiacerà anche a te di questo scioglimento che ormai perdura da 2 anni praticamente. Per te, Fabio? Sì. Peccato la domanda sul finale, sulla fine della carriera, quindi annunciata. È una band che ha aiutato la divulgazione della musica punk rock e hardcore melodico negli ultimi anni. Anch'io l'ho vista tipo 2005, no, prima secondo me. Nettamente prima adesso. non mi ricordo più il concerto per la Tussarda a Milano, è uno di quelli che ricordo di più di NFX. Insomma, è una band che ricordo che penso tutti i CD di fianco, più vinili, eccetera. Ce n'è, ok, quindi nemmeno la moglie lo chiama Fabio. Ok, c'è stato questo commento diretto. Davide, questo lo sapevo. No, perché non ho tutta questa confidenza, quindi ho detto lo chiamo Fabio, perché così dai. Per stemperare, no. Però se vuoi rimaniamo in Deca, perché se neanche tua moglie ti chiama Fabio, ti chiamo Deca. Sì, infatti. No, va bene, allora rimaniamo con Deca. Una breve introduzione l'abbiamo fatta, direi che ci divertiremo un sacco in questa puntata. UK Subs, che saranno gli headliner della giornata del Pancadeca Festival. Pancadeca Festival sostanzialmente in seconda edizione. Adesso andiamo un attimo a parlare effettivamente del festival, perché appunto 5 anni fa c'è stato il ventennale della webzine, fanzine, con tutta italiana. E 5 anni dopo al carro ponte, esatto, con Pancras, Gli Impossibili, Crummy World, FFD, Watertown, Cleopatras e Viboras. Me li sono scritti perché ovviamente non me li ricordavo tutti, quindi bravo che io non ci vado davanti e non me li ricordavo. No, vabbè, detto almeno se lo citiamo, detto almeno che vado a citare cos'era il 2019. Quindi 20 anni un numerone. 2024, per i 25 anni, avete riproposto un altro festival. A sto punto vi chiedo semplicemente, come mai, invece che aspettare i 30, fermarsi anche un attimo ai 25 e dire proviamo un'altra volta? E beh, 25 è un anno importante, cioè è un traguardo importante, che abbiamo voluto celebrarlo appunto con un festival. Già nel 2019 pensavamo di farne altri, poi tra Covid e altre cose che c'erano in mezzo abbiamo detto bene, facciamo uno fatto bene quando arriva l'occasione, e speriamo che, cioè, ah, e questo lo sarà. Ok, ok, diciamo che... quindi è possibile, sì, sì, sì. Adesso spoiler a parte, se ne potete parlare o meno, ma quindi state pensando magari a un possibile Pancadeca annuale, quindi anche 2025, o potenzialmente si aspetta i 30 anni di Pancadeca? Domando, lo so, magari sarebbe bello. Sono cose che vado a chiedere. Fare qualcosa ogni anno. No, ci sta, cioè almeno sarebbe bello. Poi logisticamente parlando, organizzare anche un festival, cioè lo stiamo vedendo sulla nostra pelle, molto, ha tantissime complicazioni, oltre che, vabbè, le cose belle del caso. Quindi riproporlo annualmente sarebbe bello, però chi lo sa. È un lavoro. Però ogni 5 anni, cioè nel senso ogni cifra tonda, diciamo, sarebbe figo mantenere questo. Anche se gli anni passano, esatto, anche se gli anni passano per tutti, però sarebbe figo. Con le Olimpiadi, una cosa del genere. Ma l'abbiamo passato, esatto. L'abbiamo fatti anche in passato, diversi anni fa, cioè intorno al 2000 c'erano. Abbiamo fatto diversi Pancadeca Festival e anche concerti più piccoli chiamati Pancadeca Night. Avevamo ogni anno un festival al Mail, il meeting delle etichette indipendenti, poi è calato un po' il meeting e non abbiamo fatto neanche più noi. Però quello che ho sempre detto, Valentina lo sa anche in redazione, è che se ci mettiamo a fare un festival vogliamo che sia fatto bene, quindi fino, sì, adesso, esatto, tutti quelli che abbiamo fatto sono venuti bene, un certo rilievo, partecipati e tutto quanto, anche questo volevamo sì, che fosse così. No, poi magari una volta c'erano magari molti meno festival, molti meno concerti, quindi magari era più semplice o magari organizzare, adesso comunque anche, cioè, incastrarsi anche con tante altre realtà non è così facile, quindi magari è meglio fare una roba fatta bene ogni 5 anni piuttosto che magari riproporla ogni anno, magari un po' così, non lo so, dico. No, no. Ci sta, infatti era una domanda. Ci siamo spinti anche all'estero, quindi le complicazioni sono state un po', cioè complicazioni. Diciamo che c'è stato un po' più di lavoro da fare. Infatti, appunto, era una domanda che ovviamente avrei fatto, perché dici Pancadeca, bene o male, certo, sì, va un po' a dire notizie anche estere per uscite di album o festival particolari, belli o quant'altro, però effettivamente parlate anche tantissimo anche di punk italiano, quindi prima versione per il ventennale, sì, tutto line-up tutta italiana, in questa versione ci era sono, Made in Italy, sì. Esatto, Made in Italy anche questa versione, sì. Però due band estere comunque ci sono per attirare magari un po' più gente, passatemi il termine, giusto per dire, ok, facciamo solo italiano, ma anche qualcosa di estero, quindi... Ci sta come ragionamento, sì. Quindi immagino magari i problemi che possano essere saltati fuori a livello di organizzazione e quant'altro. E anche immagino, quindi se c'è stato qualche piccolo aneddoto particolare che potete dire, diciamo, senza stare a infamare chi altro, se lo potete tranquillamente dire senza problemi. Ce l'hai o lasciamo da parte? No, esatto, vai tu, perché non so cosa posso dire quando no, quindi vai tu. No, niente di particolare, cioè, dico, guarda, quello che posso dire è che siamo in ballo da ottobre, sì. Quindi è un anno. Boia! Sì, vabbè, come ho detto, per fare le cose fatte bene, come abbiamo cercato di fare, tra la grafica, tra... la booking, band, cercare appunto qualcosa di che piacesse a tutti, che potrebbe piacere, che avesse qualcosa di nuovo, qualcosa di storico. Infatti abbiamo cercato di unire più o meno sempre la solita filosofia, dal gruppo più piccolo, anche se qua sono abbastanza conosciuti tutti, perché vabbè, comunque, sì, per il 25esimo non abbiamo preso gruppi appena nati, sì. però diamo spazio sia alla band grossa che a quello più piccolo, quello italiano, quello da far conoscere, e più o meno abbiamo fatto la stessa cosa. Giusto. Sì, no, infatti anche le band italiane scelte sono quelle che più o meno hanno fatto la storia anche di Pancadeca, sono quelle più longeve, comunque quelle che, di cui abbiamo sempre anche parlato, e quindi era bello anche averla al festival, poi erano tutte entusiasti comunque di venire, quindi cioè, no quello, benissimo, siamo contentissimi. Ottima scelta. E un'altra band, come dicevamo prima, che si va a formare un altro pezzo del puzzle di Pancadeca Festival per i 25 anni, sono i The Chisel. Vi dico anche tutta la line-up per chi non la sapesse, perché tanto ci andremo ad ascoltare un brano per ogni band, se riusciamo un attimo con i tempi, però comunque c'è una bella playlist sicuramente che Pancadeca ha fatto per andarsi ad ascoltare tutto quello che c'è a disposizione in questa giornata. Oltre a UK Subs e The Chisel, che sono le due band straniere, ci sono i grandissimi Bull Brigade, che sono, dopo il fuoco non si è spento, sono quasi inarrestabili perché sono seguiti tantissimo in questo momento, su Disorder, sì. The Mangies, Bad Frog e The Rubber Room, quindi piano piano si vanno a scoprire anche delle band nuove. Esatto. Prima della fine della pubblicità ci andiamo ad ascoltare anche Bull Brigade. Come avete scelto un po' le band italiane a questo punto? Un po' sicuramente quelle che, come dicevi, che hanno affiancato Pancadeca da tanto tempo, però c'è qualche valore anche affettivo in mezzo, perché per dire Bull Brigade a me piaciuto tantissimo, e quindi direi che magari anche a me un discorso c'è anche quello da parte vostra. Ma allora in realtà non è cioè ovvio che la scelta, ovvio che sono tutte band che comunque sono anche nostri amici, sono anche persone che stimiamo e tutto, però in realtà essendo comunque una redazione abbastanza eterogenea a livello di genere, di sottogenere di punk, quindi c'è chi è più sul punk italiano, e chi è più su Ramones Core, chi è più sul Melodic Hardcore, Melodic Hardcore, scusa, abbiamo fatto tipo un mega Excel con tutte le band italiane possibili e immaginabili, e ognuna esprimeva la sua preferenza, e poi andando almeno questo è stato l'inizio, poi le cose c'è stata anche più o meno una scelta poi finale di Deca. Dai, però tipo il borghese della situazione che no, vabbè, dai, alla fine diciamo che la sentenza finale, diciamo, no, vabbè, ci sta che la possa dare. È una cosa abbastanza, dai, è stata da democratica scelta. Sì, no, è stata democratica. Come diceva Vale, appunto, tutti avevano i propri gusti. Abbiamo cercato di non, appunto, favorire amicizie. Abbiamo escluso, che non è bello da dire, ho visto che c'è Fabio Crammi, quelli che avevano già suonato nell'ultimo festival per fare ripetizioni. Poi, vabbè, in base a solite cose, chi aveva già date nella zona, nel periodo, chi era libero, eccetera, abbiamo scelto le band. Sì, no, è stato un sondaggio democratico, sì, no, tutti hanno detto la loro, poi a capire anche che come gestire, per capire anche come scegliere. Come gestire. Sì. No, beh, interessante. Ma quindi io mi sono una cosa che mi sono sempre chiesta, perché tanto bene o male di Pancadeca qualcuno conosco, chi scrive o chi altro, tipo Penta, che è il romagnolo, cioè romagnolo grande, esatto, cioè un po' più giù, però abita in Romagna, ma sostanzialmente in Pancadeca quanti siete in totale, più o meno adesso non persona più persona meno. Una decina. Allora, secondo me attivi, sì, una decina. Ok, e gli sporadici, c'è qualche sporadico? Sì. Ma sì, ogni tanto. Sono tanti sporadici, diciamo. Sì. Vabbè, nel tempo sì. Ce ne sono tantissimi. Però c'è chi scrive, che ho entrato con chi chiede, ma chi è? Nuovo ingresso, poi vediamo se tira, se rimane, se si diverte. O sì, se magari. Un spot per spingere il gruppo, amico, qualcosa del genere. Sì, no, esatto, fissi siamo no, cioè siamo una decina, poi veramente alcuni magari dice chi vuol fare la recensione, magari se nessuno di noi ha tempo vuole farla, magari c'è una persona esterna che dice io li conosco bene, la faccio io, e quindi ogni tanto ci sono delle collaborazioni esterne, collaborazioni esterne, insomma. È giusto un attimo anche per capire. Un'altra domandissima velocissima, prima di mandare, come dicevo prima, andarci ad ascoltare un pezzo di Bull Brigade prima della pubblicità. Come avete scelto la location? Perché rispetto al Carro Ponte, che l'anno scorso era un pelo più grande, il Circolo Magnoli è un pelo più ristretto. Come avete scelto come è andata la soluzione Circolo Magnolia? Abbiamo, diciamo che anche qua, in base a date, disponibilità delle band straniere, ci sono stati diversi movimenti. Anche qua sondaggione. Sì, stavamo passando anche da Bologna. E, è interessante. Devo dire, sì, che allora nell'organizzazione 5 anni fa ci siamo appoggiati a Hub Music Factory. Okay. Quest'anno siamo andati con Our Staff. E lui lavora con Corrado, non so se conoscete, comunque lavora benissimo con il Magnolia. Magnolia è un posto che è piaciuto a tutti, piace a tutti, da quello che sembra, anche esternamente tutti. Ma anche come dimensioni, secondo me era perfetto, cioè, ci sta. Giusto. Quindi sì, no, è proprio, è carino come posto, cioè, almeno ci siamo trovati, sono andato l'ultima volta a vedere Interstyle e ho visto che c'era, che ne so, il distributore d'acqua, che non ci avevo fatto caso, il distributore da bere, ci sono tutte le case da mangiare, tutta la zona dove è tipo picnic, quindi roba è già tutto, cioè, lì il primo settembre va benissimo. Sì, è una cosa dove sarà la domenica, tu vuoi stare sotto il palco, sta sotto il palco, che gli altri e gli altri che... No, vabbè, ci sta. E intanto Gab scrive, amico comune direi, gente che conta e racconta, belli tutti, viva Pancadeca e dell'ETMR, quindi grazie Gab sempre per il supporto che dai a entrambi, direi a sto punto. Grandissimo. Seconda parte di Lestorm Rock, sono sempre collegato qui con Valentina e Deca, appunto per il Pancadeca Festival che si terrà al Circolo Magnolia l'1 settembre. Abbiamo fatto un sacco di risate durante la pubblicità, diciamo, quindi chi sta seguendo la diretta Instagram ha visto, chi non ha seguito la diretta Instagram potrà riseguire tutta l'oretta in cui stiamo chiacchierando, che dopo andrò a caricare tutto il video. Ci sarà anche da parte mia la playlist di tutte le band che suoneranno al Pancadeca Festival. Adesso vedremo se riusciremo a metterle effettivamente tutte. Ma tornando a parlare del Pancadeca Festival, abbiamo parlato un po' della location, di qualche possibile inghippo andandosi a interagire con band estere rispetto a quello che possa essere il parco italiano per quanto riguarda delle band. E un'altra domanda che un attimo in anticipo, perché ne avevamo parlato, perché pensavate di fare un festival ogni anno, ma comunque le tempistiche sono quelle che sono. Direi che a sto punto è doveroso da parte mia, e se lo sapete già, ci state già pensando, è per il 2000, per i 30 anni, a sto punto ci sarà anche lì un super festival, magari due giorni a sto punto, perché dici... Sì, beh, con le richieste delle band che abbiamo ricevuto, potremmo farle per i prossimi 100 anni. Sì, una settimana non basta, cioè con 10 gruppi al giorno. Avevamo, non me lo ricordo più il numero, ce l'ho segnato da qualche parte, ma erano 200. Delle band italiane sono stati più o meno 200, sì, erano una cosa del genere. Sì, a fare. Sì. Fine. Sì, no, infatti, poi è vero che è anche brutto effettuare una scelta, però cioè, ovviamente non sì, si può far scelte... suonare certo. Oltre ad essere difficili, erano anche per stupidate, tipo no, questa è troppo simile, allora la scarpia, cioè, sì, magari era... Era un po' più interessante. I 30 anni magari, chi lo sa. Facciamo 2020, se non chiudiamo, perché c'era anche questa. Se non vado in pensione, l'anno prossimo. No, beh, dai, se ci sarà un erede, diciamo, perché ormai diciamo che piano piano sta prendendo, bravo. Dai, sta prendendo piede, diciamo, comunque questa, passami il termine, hobby o quello che poteva essere passatempo del lontano 99, adesso è un po', siete anche comunque partner di diversi festival italiani, quindi direi che l'interesse, per quanto mi riguarda, poi dopo ovviamente è scelta vostra, sarebbe bello comunque continuare ad andare avanti. Però comunque, tornando al festival, 200 band si sono candidate per questo festival e solo 5, purtroppo, giustamente le tempistiche sono quelle che sono, quindi direi che ce n'è da, sì. Da poter fare. Ma in questo caso, dato che comunque ci sia stata una divulgazione iniziale per dire stiamo facendo un festival, chi si vuole proporre, oppure come è nato un po' il discorso del passaparola, diciamo, vogliamo fare un festival o... No, non abbiamo fatto richieste, parte delle 200 sono state stilate da noi, non è che tutti si sono proposte. No, beh, certo. Ma diciamo che all'annuncio, che era solo facciamo il festeggiamo, lì abbiamo ricevuto una richiesta, tantissime richieste. Sì. Così. Ah, ok, quindi è bastato solo il discorso festeggiamo 25 anni. Sì. Saluto anche un mio collega che si è collegato con gli altri miei colleghi. Ciao ragazzi. Poi in realtà già stato, abbiamo fatto anche un sondaggio su Instagram, tipo chi vorresti sentir suonare. Ma così, giusto per vedere un po' la gente che hype aveva, chi voleva. E tanti l'hanno preso come un sondaggio, no? Quindi ci scrivevano, tipo anche a me, alcune band in privato scrivevano votami, così riesco tipo per suonare al Panca dei Caffè. Ma in realtà non era un sondaggio, era tipo una roba, per capire un po' dove era orientata la gente, sai, se rispondevano in tanti una band, quelle robe lì. E invece tanti l'hanno preso per un sondaggio, quindi, cioè... Fantastico. Cioè, questa cosa qua è stata un po'... E quindi... No, sì, beh. Sì, invitavano gli amici a votarli, cioè fate suonare loro. Le risposte su Instagram, infatti erano quei sondaggi che si fanno nelle storie, cioè alla fine ho fatto un video con tutte le risposte perché non potevi pubblicarle. Sì, anche no, certo. Erano un sacco. No, fantastico. Sì. Belli questi retroscena, perché sono cose che ovviamente non si possono... Sì, è stato divertente, sì. Infatti, dici, da una cosa... Goliardica, cioè non dico goliardica, però dici è nostra, no, ti piace festeggiare, sì. Però alla fine doveva essere un chi ti piacerebbe, così era giusto così tanto, sì, per non era una cosa presa sul serio, sul serio, però comunque tra virgolette, esatto, sì, è andata sul serio, no vabbè, fa piacere. E anche qui su Disorder, che faranno parte del Panca dei Caffè Festival, lo ripeto perché così è questo che stiamo parlando appunto in questa intervista, come tanti stanno facendo qualche messaggio su Instagram, qualche saluto, qualche domanda, qualche cuoricino, se qualcuno volesse 333 180 94 94, un messaggio su WhatsApp, e dopo ovviamente lo leggerò io, tanto ce l'ho qui bello carico vicino a me, e possiamo tranquillamente proseguire con l'intervista. Una ventina di minuti circa più o meno andranno a concludere l'intervista, e spero di riuscire a mettere anche tutti i brani, però comunque nel caso nella playlist ci saranno tutti. C'è stato qualcuno un po' più adesso domanda un attimo che è venuta così un po' casaccio adesso, qualche band magari senza far nome ovviamente, un pelo più prepotente, detto fai suonare me perché ci tiri su dei soldi, per dire, no, ti porto gente o che altro. C'è stato qualcuno un po' più prepotente della serie sono spavaldo perché... Allora, ci tiri su dei soldi, non dalle no, band. No, esatto, quello no, ok. E non ho negato, ho detto non dalle band. Però tantissimi, cioè, senza fare nomi, che scrivevano tipo tutti i giorni con faccine piangenti, non puoi non farci suonare, o cose del genere. Sì. Facevi fatica anche a dirvi. Sì, poi è brutto anche, esatto, dire magari. Non faccio nomi, dai. No. Non fare il democristiano. No, sì, adesso questa qua è una risposta un po' democristiana, perché alla fine non si può dire chi ha detto cosa. Cioè, però sì, no, ci sono state. No, vabbè, però ci sono state. Esatto, degli episodi in cui dicevano però ci deve essere questo, però vabbè. Esatto, era giusto sul vago, era una domanda che è venuta in mente adesso, dici, che poi è venuta in mente col fatto che avete ricevuto tantissime richieste di band che volevano suonare, dico, magari ce n'è stata qualcuno che è stata un pelo più altezzosa e ha detto con me, io ti chiamo gente, chiama me per questo motivo e bla bla bla. Però sì, sì, sì. Era giusto, non voleva risultare una domanda scomoda. No. E adesso non so se ne abbiamo parlato, comunque sicuramente le prevendite sono già belle che attive, quindi se volete dire anche questo contatto, in modo da poter, se qualcuno si vuole assicurare il biglietto che magari possa andare sold out oppure rischiare di perdere solo in cassa, ditemi voi pure dove possono andare a prendere la prevendita. Le prevendite sono su Dice. Basta appunto digitare Dice Dice Pancadeca Festival ed è possibile acquistarli. Ah, 30 euro per vendita. Ok, sì, okay. Sì, sì. Ma adesso un'altra domanda, sicuramente probabilmente a voi ve l'hanno detto, ma più o meno la capienza del Magnolia quant'è? Per i concerti? Ah, no, ce ne stanno tanti. Sai che non lo so. Ce ne stanno tanti, secondo me un totale di 3.000, ma... cioè sarà inferiore, cioè per come l'allestiremo, perché è vero, non abbiamo parlato, ci saranno vai pure, ci saranno tanti stand, ci saranno qualche attività e mostra, qualcuno non la svelo perché no se c'è qualcosa che non se c'è qualcosa che non è ancora uscito di ufficiale, no vabbè, però ci stiamo lavorando. Ecco, attività, ci saranno diversi stand, anzi aspetta che così magari li dico, no non è vero perché non posso dirli tutti perché non ce li ho scritti, però ci sono distro, label, brand che espongono le proprie cose, cioè, sarà un bel po', cioè anche come idea, guarda, la butto là, iniziale, grazie Pera. Scusa, mi ha caduto l'occhio. No, ho letto, che brutto Deca, ho letto. Ah, questo è amore reciproco. Vabbè, sono... Aiuto. Stavo dicendo che l'idea nasceva anche come... Oddio, non mi viene la parola, altro che raduno. Comunque una riunione di... Come si chiama? Di diverse... Mi mancano le parole, aspetta, devo bere la birra. Vai tranquillo. Diverse realtà. Riunione di diverse realtà che si trovavano tutte per il festival, perché è quello che è stato in questi 25 anni, cioè diverse etichette, diversi appunto organizzatori di concerti, di diverse realtà, diversi gruppi, e abbiamo cercato di invitare anche un po' tutti questi. Sì, esatto, è proprio bello anche il contorno che si è creato, cioè, attorno oltre alle band, ecco. Certo. Ce ne saranno tanti, questi li abbiamo invitati, non è sì. Uscito niente tipo volete mettere giù la distro, cosa. Qualcuno ce l'ha chiesto, però ci può stare. Sì, sì, sono stati no dai, bello, su invito, come le discoteche. Cioè, esatto, c'è cioè, tipo la VIP area con esatto. Allora, allora adesso ovviamente lo dico in modo scherzoso, però sicuramente non c'è, sì, non no. C'è il pit, vero? Non c'è il gold pit per il doppio no. Cioè, okay. Spero di no. Okay. Non c'è il gold pit, non c'è okay. Token, quelle cose là che ho visto ultimamente per bere. Esatto, esatto. No, va bene. C'è un coso che inquadri, puoi prendere e andare a ritirare la birra che è velocissimo. Basta, cose molto semplici e molto genuine piuttosto sì. Che tante altre robe un po' più articolate. E prima di andare a chiudere effettivamente la diretta con questa puntata di Lestomon Rock dedicata al Pancadeca Festival, vi rinnovo l'invito per quanto riguarda appunto il Pancadeca Festival per i loro 25 anni, 1 settembre al Circolo Magnolia con UK Subs, esatto. The Chisel, Blue Brigade, Sud Disorder, Mangis, Bad Frog certo. E The Rubber Room. Arriva, c'è, anche la c'è anche il flyer, esatto, bellissimo, che si vede storto, però comunque è... impossibile girarlo. Sì. Va benissimo, se no dovevi stamparlo al contrario, che dopo in specchiato si vedeva dritto. Esatto. Quello era tutto un trick incredibile che meglio lasciare stare. Esatto. Come dicevo, siamo arrivati addirittura d'arrivo, ho una domanda molto aperta, quindi so che c'è quel filo di paio di secondi, dici, oddio, adesso che cosa dico, ma... Si è sempre risolta per il verso giusto. E la domanda è molto semplice. C'è qualcosa che non vi ho chiesto che volete dire? Esatto, e qui sono i secondi che partono. Domande a scaricabarile che funziona sempre, però il panico iniziale c'è. Però so che riuscirete, siete in due, qualcuno riuscirà a dire qualcosa. Che non ho, no, che io non faccio la domanda alla Vale. Vai. Cosa c'è dentro la tazza che bevi ogni tanto? C'è il caffè freddo, in realtà. No, perché l'avevo messo su prima, poi l'ho lasciato io ce l'ho, lì. Ce l'ho. Vai. Ce l'ho, non ci hai chiesto? Non ci hai chiesto, o magari l'hai anche detto. Vai. Inizia presto e finisce presto. Orari del festival. Sì. Vai, esatto, orari del Dai, festival. Ci sta. Perché, esatto. Allora, dovrebbe iniziare già forse il primo... Noi abbiamo sempre scritto dappertutto orari 17, però forse alle 17 inizia proprio il primo gruppo. Adesso stiamo vedendo se si riesce a aprire le porte un po' prima. E comunque, inizia quell'ora e tutto tirato con due palchi fino alle 11:30 circa. Adesso butto là un orario che dovrebbe essere questo, ma questo per dar modo, lo dico, per dar modo a quelli milanesi di prendere i mezzi e di tornare, ma anche chi arriva da lontano tornare un po' prima perché è una domenica. Esatto, quello Okay. È domenica, sì. Ah, ok, quindi sfruttate i due palchi del Magnolia, perché effettivamente il Magnolia dà la possibilità di questi due palchi. Vabbè, allora tanto ovviamente suona uno, non suona l'altro, quindi tanto anche perché i palchi sono molto vicini. Adesso quindi capiamo come... Esatto, come gestire i due palchi è molto comodo, perché effettivamente mentre da una parte suono, dall'altra parte puoi sistemare per la band successiva e viceversa. Esatto, quindi quello, prendi tempo. Riesci a prendere tempo, quindi senza cavallare gli orari, anche perché non si capirebbe nulla, perché sono veramente molto vicini i due palchi. Quindi, no, ottima scelta. Quindi io, come dicevo, siamo effettivamente arrivati addirittura d'arrivo, ci andiamo ad ascoltare in Two Songs in a Row, i Bad Frog, e poi di seguito i The Rubber Room, in questo caso con i Bad Frog, con dal primo album Ti auguro tante belle cose, mi sono strappato i piedi del naso soltanto per te, e per i Rubber Room dal self-titled EP Boys and Girls andiamo ad ascoltare. Detto questo, io vado effettivamente a chiudere la puntata, che così vado a mettere anche le ultime due band. Quindi vi ringrazio tantissimo della disponibilità. Grazie a te. Spero sia andata bene davvero. Che sì, guarda dai. Vai tranquilla, per tutto quello che poteva essere, che non poteva andare, è andata tutto, è andata bene. Ah, tecnicamente sì. Esatto, a livelli tecnici poi, i contenuti sono quelli che sono, dai. No, va bene, si parla, le due buffonate le abbiamo dette, quindi bravissima. Tanto si parlava del festival, di fare pubblicità al festival, che sarà l'1 di settembre, il 1 di settembre, quindi è andata bene. Quindi vi ripeto, grazie ancora per la disponibilità, e se grazie riesco vengo volentieri al Pancadeca Festival. Dai, quindi dai, io vi saluto, e comunque meno male ci vediamo al prossimo concerto, più o meno. Esatto, ok, grazie. Ciao, ciao ragazzi, ciao. Buon punk rock a tutti.